Capitolo 161. La seconda riunione in Aulide. Calcante, fratello di Leucippa e di Teonoe, aveva appreso dal padre suo Testore l'arte della profezia. Un giorno Teonoe stava passeggiando lungo la spiaggia nei pressi di Troia, allorché i pirati carei la rapirono ed essa divenne concubina di re Icaro. Testore subito si lanciò all'inseguimento dei pirati, ma naufragò sulle coste carie e fu imprigionato da Icaro. Molti anni dopo Leucippa, che era ancora in fasce quando questi tristi eventi si verificarono, andò a Delfi per avere notizie di suo padre e di sua sorella. La Pizia le consigliò di travestirsi da sacerdote di Apollo e di recarsi in Caria per cercarle, e Leucippa docilmente si rase il capo e giunse alla corte di re Icaro. Ma Teonoe, che non la riconobbe sotto quel travestimento, si innamorò di lei e disse a una delle guardie: «Conduci quel giovane sacerdote nella mia camera». Leucippa, che a sua volta non aveva riconosciuto Teonoe e temeva di venire condannata a morte per impostura, la respinse. A che Teonoe, non potendo esigere dai servi di palazzo che uccidessero un sacerdote, poiché avrebbero così commesso sacrilegio, ordinò che l'incarico fosse affidato ai prigionieri stranieri e scelse la spada che si doveva usare per l'esecuzione. La sorte cadde sul prigioniero Testore, che entrò nella camera da letto dove Leucippa era stata rinchiusa. Le mostrò la spada e con voce angosciata narrò la sua storia. «Non ti ucciderò, signore», disse, «perché anch'io onoro il dio Apollo e preferisco uccidere me stesso anziché alzare la mano su di te. Ma lascia che ti riveli il mio nome. Io sono Testore, figlio di Idmone l'Argonauta, sacerdote troiano». E stava per affondare la lama della spada nel proprio petto, allorché Leucippa lo fermò gridando: «Padre, padre mio, io sono Leucippa, la tua figliola. Non usare quel ferro contro te stesso, ma uccidi piuttosto l'abominevole concubina di re Icaro. Vieni, seguimi». Si affrettarono verso la camera di Teonoe. «Ah, donna lasciva!» gridò Leucippa, varcando la soglia con Testore che la seguiva dappresso. «Preparati a morire per mano di mio padre, Testore, figlio di Idmone!» Fu allora che Teonoe esclamò: «Padre, padre mio!» E quando tutti e tre ebbero versato lacrime di gioia e innalzato ringraziamenti ad Apollo, re Icaro generosamente li rimandò in patria, colmi di doni. Accadde che Priamo, rifiutata la proposta di Agamennone di restituire Elena, mandò a Delfi Calcante, figlio di Testore, sacerdote di Apollo, perché interrogasse la Pizia. Dopo aver predetto la caduta di Troia e la totale distruzione del casato di Priamo, la Pizia ordinò a Calcante di unirsi ai Greci per impedire loro di abbandonare l'assedio prima di aver ottenuto la vittoria. Calcante allora pronunciò un solenne giuramento di fedeltà ad Achille, che lo ospitò nella propria dimora e poi lo presentò ad Agamennone. Quando la flotta greca si radunò per la seconda volta in Aulide, forti venti contrari le impedirono per parecchi giorni di salpare. Calcante profetizzò che i greci non avrebbero mai potuto far vela per Troia se Agamennone non avesse sacrificato ad Artemide la più bella delle sue figlie. Non si sa con certezza per quale ragione Artemide fosse irritata. Alcuni dicono che, colpito un cervo con una freccia scagliata da grande distanza, Agamennone si vantò dicendo: «Persino Artemide non avrebbe saputo fare di meglio», oppure che egli uccise una capra sacra alla dea, oppure che fece voto di offrirle la più bella creatura nata quell'anno nel suo regno, e che tale creatura fu Ifigenia, oppure che il padre di Agamennone, Atreo, non aveva sacrificato ad Artemide un agnello dal vello d'oro che le era dovuto. In ogni caso Agamennone rifiutò di obbedire all'invito di Calcante, con la scusa che Clitennestra non avrebbe mai consentito che si sacrificasse Ifigenia. Ma quando tutti i greci minacciarono di giurare fedeltà a Palamede e di abbandonare Agamennone se si fosse ostinato nel suo rifiuto, e quando Odisseo, simulando un'ira violenta, si preparò a salpare per Itaca, Menelao intervenne come paciere e gli propose che Odisseo e Taltibio conducessero Ifigenia in Aulide col pretesto di darla in sposa ad Achille come premio delle valorose imprese da lui compiute in Misia. Agamennone acconsentì a tale inganno, ma subito, in gran segreto, mandò un messaggero ad avvertire Clitennestra perché non prestasse fede alle parole di Odisseo. Menelao tuttavia intercettò il messaggio e Clitennestra lasciò partire Ifigenia per l'Aulide. Quando Achille scoprì che Odisseo si era servito del suo nome per tramare un inganno, stimò suo dovere difendere Ifigenia, ma la fanciulla nobilmente acconsentì a morire per la gloria della Grecia e senza una parola di rammarico offrì il bianco collo all'ascia sacrificale. Alcuni dicono che all'ultimo momento Artemide salvò Ifigenia portandola in Tauride e sostituendola con una cerbiatta, oppure con un'orsa, oppure con una vecchia donna. Altri che si udì il rombo di un tuono e che, per ordine di Artemide e mosso dalle lacrime di Clitennestra, Achille intervenne, salvò Ifigenia e la mandò nella Scizia, oppure la sposò, e Ifigenia, anziché Deidamia, fu la madre di Neottolemo. Tuttavia, sia che Ifigenia morisse, sia che fosse risparmiata, il vento di nord-est cadde e la flotta poté finalmente salpare. Dapprima le navi giunsero a Lesbo, dove Odisseo si misurò con re Filomelide, che costringeva sempre i suoi ospiti a lottare con lui, e fra le alte grida di entusiasmo di tutti i greci presenti lo stese a terra. In seguito approdarono a Tenedo, isola che si vede da Troia, e a quei tempi era governata da Tenedo, il quale, pur essendo ritenuto figlio di Cicno e di Proclea, figlia di Laomedonte, poteva vantarsi di avere Apollo come padre. Codesto Cicno, figlio di Posidone e di Calica o Arpala, regnava a Colone. Partorito in segreto e poi esposto sulla riva del mare, fu trovato da alcuni marinai che videro un cigno volare verso il neonato per confortarlo. Dopo la morte di Proclea, egli sposò Filonome, figlia di Tragaso. Filonome si innamorò del suo figliastro Tenedo e, non essendo riuscita a sedurlo per vendicarsi, lo accusò di aver tentato di usarle violenze. Chiamò il flautista Molpo come testimone e Cicno, credute le loro parole, chiuse Tenedo e sua sorella Emitea in un cofano che abbandonò alle onde del mare. Essi approdarono all'isola di Tenedo, in seguito chiamata Leucofri, che significa bianco giglio. Più tardi, quando scoprì la verità, Cicno fece lapidare Molpo, seppellì viva Filonome e, saputo che Tenedo, scampato alla morte, viveva a Tenedo, andò a chiedergli perdono. Ma Tenedo, che ancora covava un sordo rancore, tagliò con una scure gli ormeggi della nave di Cicno, di cui la frase proverbiale per descrivere un irato rifiuto, scacciare da Tenedo con un'ascia. Alla fine, tuttavia, Tenedo si placò e permise che Cicno si stabilisse presso di lui a Tenedo. Ora Teti aveva avvertito Achille che se mai egli avesse ucciso un figlio di Apollo, sarebbe morto per mano di Apollo. E un servo chiamato Mnemone lo accompagnava al solo scopo di ricordargli ogni giorno la predizione della madre. Ma Achille, allorché vide Tenedo, che scagliava massi dall'alto di un promontorio contro le navi greche, raggiunse la riva a nuoto e, senza rifletterci sopra, lo uccise trapassandogli il cuore. I greci sbarcarono e saccheggiarono Tenedo. Resosi conto, ma troppo tardi, di quanto aveva fatto, Achille condannò a morte Mnemone, che non gli aveva rammentato le parole di Teti. Poi seppellì Tenedo, dove ora sorge il suo tempio. Nessun flautista vi può mettere piede, né vi si può pronunciare il nome di Achille. Achille inoltre uccise Cicno con un colpo alla nuca, il suo unico punto vulnerabile, e inseguì Emitea, che fuggì rapida come una cerbiatta. L'avrebbe tuttavia raggiunta e violata se la terra, aprendosi, non l'avesse inghiottita. Fu a Tenedo poi che per la prima volta Achille litigò con Agamennone, accusandolo di averlo invitato a unirsi alla spedizione soltanto di ripiego. Palamede offrì un'ecatombe ad Apollo Sminteo in ringraziamento per la vittoria sui Tenedi, ma mentre sacrificava le vittime un serpente d'acqua si avvicinò all'altare e morse al piede Filottete, il famoso arciere. Né unguenti né fomenti valsero a sanarlo, e la ferita divenne così infetta e i gemiti di Filottete così alti che i suoi compagni non poterono più tollerarne la vicinanza. Agamennone perciò ordinò a Odisseo di abbandonarlo su una spiaggia deserta di Lemno, dove egli campò per alcuni anni cacciando gli uccelli, e Medonte assunse il comando delle sue truppe. Secondo un'altra versione, questo incidente si verificò a Crise, un'isoletta al largo di Lemno, che fu poi inghiottita dal mare. Si narra che colà la ninfa Crise si innamorò di Filottete e, da lui respinta, lo fece mordere da una vipera mentre ripuliva dal terriccio il sepolto altare di Atena Crisia. oppure che Filottete, avvicinatosi troppo al serpente che custodiva il tempio di Atena, ne fu morso. Secondo una terza versione, Filottete fu morso a Lemno da un serpente mandato da Era per punire colui che aveva osato dar fuoco alla pira di Eracle. Filottete in quel momento stava contemplando l'altare innalzato da Giasone in onore di Atena e pensava di innalzarne uno simile in onore di Eracle. Secondo una quarta versione, Filottete fu morso mentre ammirava la tomba di Troilo nel tempio di Apollo Timbreo. E secondo una quinta fu ferito dalle frecce avvelenate di Eracle. Eracle, si dice, gli aveva fatto giurare di non rivelare ad alcuno dove fossero sepolte le sue ceneri. Ma quando i greci seppero che Troia non sarebbe caduta senza l'ausilio delle frecce di Eracle, andarono in cerca di Filottete. Benché egli dapprima negasse di aver conosciuto Eracle, finì col narrare esattamente ciò che era accaduto sul monte Eta. E i greci gli chiesero allora ansiosamente dove si trovasse la tomba dell'eroe. A questa domanda Filottete rifiutò di rispondere, ma poiché i greci insistevano, si recò sul luogo della sepoltura e senza dir parola batté col piede sul suolo. In seguito, mentre passava di nuovo accanto alla tomba per raggiungere la spedizione contro Troia, una delle frecce di Eracle saettò fuori dal turcasso e gli forò un piede, per ammonire che i segreti divini non devono essere rivelati nemmeno con un cenno. Il dramma perduto dal quale Igino trasse la storia di Testore e delle sue figlie era un lavoro teatrale privo di valore mitologico. Una versione del mito delle figlie di Efte pare sia stata confusa col sacrificio di una sacerdotessa compiuto da Agamennone in Aulide, dietro l'accusa che la sacerdotessa aveva suscitato venti contrari con opera di stregoneria. Con lo stesso pretesto, Sir Francis Drake fece un giorno impiccare uno dei suoi marinai, una spia, al soldo di Cecil. La decisione di Agamennone pare offese l'opinione dei conservatori in patria, poiché le donne erano per tradizione escluse dai sacrifici. I Tauri, presso i quali si dice che Artemide avesse condotto Ifigenia, vivevano in Crimea e onoravano Artemide con sacrifici umani. Il figlio di Agamennone, Oreste, cadde nelle loro mani. La gara di lotta di Odisseo con re Filomelide, il cui nome significa «caro alle ninfe delle mele», è stata probabilmente tratta da una raffigurazione della consueta prova rituale. Il vecchio re è sconfitto dal successore e gli si dona un ramo di melo. Achille uccise un secondo cicno, Eracle ne uccise un terzo e Zeus gli impedì di ucciderne un quarto. I cigni, come il nome cicno indica, trasportavano le anime dei re nel paradiso settentrionale. Quando Apollo appare nelle antiche opere d'arte a cavallo di un cigno oppure su un cocchio trainato da cigni per visitare la terra degli Iperborei, l'immagine rappresenta in modo figurato la sua morte a mezza estate. I cigni dunque cantano dirigendosi verso il circolo polare artico, loro terra natale, ed emettono due note a mo' di tromba. Ecco perché Pausania dice che i cigni sono versati nell'arte delle muse. Il cigno canta prima di morire, cioè l'anima del re sacro si diparte al suono di musica. Esistono molte versioni circa la località in cui morì Filottete, perché la raffigurazione da cui fu tratta la leggenda era molto diffusa. Egli è il re sacro di Tenedo, di Lemno, dell'Eubea o di qualsiasi altro stato elladico che muore per il morso di un serpente o per la ferita di una freccia avvelenata accanto all'altare della dea. Eracle non fu il solo re sacro, la cui tomba doveva rimanere segreta. Questa usanza pare fosse diffusa nell'istmo di Corinto e tra gli ebrei primitivi. L'episodio di Tenedo che scaglia massi contro le navi greche deve essere un'erronea interpretazione di una raffigurazione che mostrava l'eroe solare mentre spinge verso lo zenit il disco del sole, poiché Talo, un eroe solare cretese, scagliò anche egli rocce contro navi che si avvicinavano al porto. Le navi disegnate in quella raffigurazione volevano semplicemente dimostrare che Creta, come Tenedo, era una potenza navale.